binario di ECK. Modello, 500 lanci, quella grande. Ah, ho capito. Sì, che ci faccio una bella ragione, dai, diciamo. Che lei per diciamo? Per me non c'è adesso da mamma a piazzarlo e poi vado su a casa di sera a sedere a pulirmela. C'è una amica. Ai ai. Che pulisce e guarda, conosco per terra. Tranquillo. Va bene allora. C'è una mica in gamba. Dai, ci vediamo dopo, dai. Sì, dai, ecco, ciao ciao. Allora. Toccava, si è tagliato quel pezzo di cavo, l'ho rifatto, un euro di tasse. Sardegna Italia che risponde, avanti. Oh, già, ho un cliente, già di già. Avanti la piccola ora, Italia Nord Sardegna. Hola. Hola Gianni. Emmo. Emmi, sono con un cliente al telefono. A rompere le balle, a chiedere i prezzi. Basta andare al telefono, dice venite qua e parliamo. No, è bello che c'è portato la bombola, poi non ha voluto una metà straniera, mi pare una metà di chi si strani. Ah, ho capito, Ucraina con le polacche, grazie a muri dei vostri. Ma sai cosa? Che hanno i soldi contatti, magari non sanno se ce l'ha fatta, magari chiedono per quello, lo fanno fare male. Ma per carità, già. Oh, via. Che società strana fa presente. Deve essere una di chi si guadagna. A che da maniera. O cacchinita. Tanto ieri ero vicino alla casa dove abitavo in privato, sono andato alla circoscrizione a fare un documento, convinto che era ancora aperto di Sarra, però c'era il cartello comune di Sassari, tutto qua, l'altro termine dovrebbe aprire, sono andato alle 8.25, non ho visto nessuno. No, mi pare che non c'è più. Non c'è più la circoscrizione. Non c'è più, non è chiusa, poi l'ho chiesto a fare quello delle bombole. Mi ha detto, no, è chiuso, dovranno riaprirla, ma non si sa quando. Sì, quando l'ho legata. E quindi sono dovuto andare a Corte Santa Maria. Sì, ma sono chiuse, mi sa. Vabbè, cazzo, a Corte Santa Maria della rabbina, lui. O se no, la carta d'identità deve fare. No, un altro certificato. Un altro certificato. E praticamente sono andato lì a fare. Ma meno male che c'è un amico che me l'ha fatta subito, me l'ha fatta trovare proprio. Chiaro. Se no i punti devi andare, l'unico che stanno funzionando è Corte Santa Maria di appunto. Lo so che ma non è tali punti, ma non so manco dove arrivare. Io non vedo come è andato io, la verità. Sarà dove c'erano i vigili, dove c'è il comando dei vigili, Chiaro, ma non lo so, no, non ti so dire. Cava. Non mi hai mai portato un uomo, no, ci sono parlato con il Corte Santa Maria, vedo che c'è tanta gente perché io vado lì. Lì si mangia bene, mi dà sovramezza. Hai visto che c'è bar ristorante lì dentro? No, non ci ho fatto a caso. In fondo. E in fondo c'è anche la c'è anche il comune, però non so dove. È un bel largo quello spazio che si batte un anno di vero. Il Corte Santa Maria. E beh, cosa c'è che si mangia bene? È un bel ristorantino, cioè. Più si mangia la pizza bene, si mangia molto bene. Se tu vuoi mangiare la pizza bene e non ci stai più, a te viene male, va a fianco alla piazzetta, c'è pizzeria alla Roccia, non so se la conosci, prima c'erano i cilici, mi pare. Praticamente fa delle pizze che sono favolose e in più ti dà prima della pizza offerta dalla casa, ti fa polpettine, roba così fritta e te la mette prima della pizza, poi finita la pizza ti fa il dolce con la pasta della pizza, con la Nutella, con lo zucchero, e altre cose. Non sai cosa fa quando è bella calda la Nutella? Si attacca un di buio. Io l'ho mangiata, non ho fatto nulla, era buonissima, ma non buona, di più. No, anche a me non mi piace proprio. Oh, sei l'unica persona che si è detto che non gli piace la Nutella. Ah, ci si la può attaccare a culo. Addirittura io c'era una commessa da noi che la usava come una droga, si andava anche di notte a mangiarla e quando non la trovava si metteva a piangere. Era arrivata a un punto, a cucchiaio, cioè che se la mangiava. Sì. il centro antidiabetico aperto, sempre per quelle persone lì. Ora guarda qua che sta roba. Lo sento, adesso c'è l'olio di pala che fa male della Nutella, quello sì, però ce n'è una di scala che è senza olio di pala ed è un bel buono. Non ne mangio io di quelle cose, Gianni, lascia perdere, no. Non è cioccolato, quello proprio la pasticceria, che ci abbiamo inviato, ma c'è Nutella, troppo nausea e bomba mi rimane. È la cioccolata con la pala, la mangiala. Importante che non sia Nutella, perché mi rimane troppo nausea e bomba. Io l'ho mangiata io, con la pala e poi con la sottatina di cacao sopra, quello che vuole. Calda calda, no, già è la tappa che non le mangiamo, sono andato con un amico e ci abbiamo preso. Sì, ma adesso, cazzo, l'altro giorno ho mangiato qua nel bar di Via Napoli, Sandrino si chiama, quello, cazzo, ha giocato qua che c'ha carbonara, cazzo, non ho speso neanche tanto, ha sogna magnata. Ma hai mangiato il primo e basta? Sì, ma mi basta il primo. Ah. Vabbè, c'è molta gente che mangia il primo e il secondo. Poi magari a cena mangia il secondo e la parte del primo, capito? Lo dico. Invece mangia solo il secondo e basta, sia a cena che a pranzo. Primo non le mangio. No, ma mi basta il primo. Sperando che me lo dai abbondante, me lo dai, tu non me ne frega niente. Gianni, mi che ti ho mandato quella cosa lì che l'ho letto adesso, il messaggio. Perché ieri sono andato a accompagnare a Marco all'aeroporto e a Martini c'ero io. E eravamo d'accordo di trovarci, invece poi il collega non l'ha voluto chiamare, quindi ha detto che ti do il numero, così parlavi qui che non ti più riprendere e ci troviamo. E vabbè là, te l'ho mandato là. Grazie, rimani. Ciao Natali. Ciao Bomboni. Ah, già mi senti oggi, sì. Sì che ti sento. Meno male. Per bianco un attimino. Tanto però ti sento più basso, ti sento. Antonio. Antonio. Siamo CQ10. Yeah. Io sono Natalino. Ah, ciao Natalino. Ebbene, sto fatto, l'ho registrato. E K. Però Antonio lo sentivo basso poco fa. No, io 9.5 lo sentivo come sempre. E ieri, sì, ieri lo sentivo molto basso. Santiago 4. Ma oggi era 9.5, quando me l'ha chiesto era 9.5, se non è che gli è successo qualcosa dopo, dice che c'è mal piede mollato. Ma basso di radio, prima lo sentivo bene. Grazie, c'è un microfono normale. No, io lo sento amplificato. Un microfono normale, cosa pretendi? Ma è amplificato dal parecchio, io lo sento fuori. Io c'ho un alimentatorino dal cavolo, se no avrei portato il 747. Io ne ho un bello di alimentatore. Mi cambio il codice, sto più basso di watt, lo faccio andare così, capito? E cosa si può pretendere da un cicacuzzo? Non è che sia chiesa che cosa, no? E che alimentatore viste da? Ah cosa? Un alimentatore minore, da capper. Cicacuzzo, cosa? Io ne ho una 35, però dunque dico la trasformatore interno. Basta la modulazione già. Cosa? Sento la modulazione basta. Guarda adesso, vedete. Un po' meglio. E allora non dipende da me. Ma senti, com'è la modulazione? La tua va bene. A lui è che sento basso un po'. Ma tanto non ti sente basso, Eia, che prima mi arrivavi 9.10, anche più basso di segnale, sì. Prima mi arrivavi più forte, sia di segnale che di radio da lì. Io sempre questa ciò. 9,5 sempre, a me mi arriva, anche adesso mi sta arrivando 9,5. Però tu ho notato una cosa, si è alzata la modulazione e poi di colpo si è abbassata. Sto parlando piano. No, magari te la lontani forse. Non lo so. Guarda io se mi avvicino, più forte. Sì, no, se ti arrivi bene qua già. Posso vedere, me l'hanno fatto ammassare perché dice che era troppo forte. E poi se la passano, mi senti tu, non mi senti l'altro, e non sa mai come ti va. Ma lasciami perdere. Che va bene. E allora Natalino, Natalino. Ehi, aspetta. C'è un poco di cose mi può. Cioè, non è che potete pretendere niente, una radio così, cioè. Anzi, sta andando anche troppo bene, sta andando. Ma questo è un Intec, ho capito. Che apparecchio è l'Intec? Sì, il sovaggio. 550, e quello si è parlato bene, tu cosa si dice? Sì, no, non va bene. No, va bene, sì. Ma tu hai detto che usavo per dare un cicafuso, non un cicafuso, va bene. Ciao. Ma in che senso Natalino? Natalino, in che senso tu no, non mi senti bene? Ma il segnale quanto è dato? Sì, Natalino sta facendo lunga. Ha detto che ti sente basso, più basso di prima. Prima gli arrivavi 9,10. Beh, non lo so. Sempre lì è l'antenna, non è che non è sfruttata né niente. Ehi, se mi sentite, se no già, non fa niente. Quando ho qualche soldo compro un alimentatore migliore, porto 747 e poi vediamo. Siamoci d'accordo, io sono io. Ciao. Sì, te lo guardi, se ti piace. Perché ce l'hai? Sì. Già vai. Devi vedere. Due strumenti, trasformatore interno. Ma cosa? Alimentatore? Sì. No, non ne voglio cose voluminose qua. Cioè, già è troppo mannughiccio. No, questo è grande. È grande, ma è un alimentatore, guarda, non è di chi si deve, né di quelli cinesi, né degli altri. È di quelli con trasformatore all'interno, pesanti. Sì, cazzo pesa. E ho 20 kg pesa. No, la male, ragazzi, ti fatto a bere. Ma se lo vedi ti piace. Vabbè, ma non avevo un mio occhio, perché mi sono buttato a casa. Bello è. No, ma preferisco usare quelli. No, qua più piccolo è. Più la cosa è miniatura e più funziona bene qua. Così è. Perché è poco spazio, se no la roba bella, la roba grande è bella. Già lo so. Io qua c'è il mobile e ci mettete in gara, si non mi dà nessun fastidio, non è come certa gente che dice che gara si compra, a me non mi dà nessun fastidio, non è il mobile. Io no, non ho posto. Già è troppo che sta giù su questa radio umana. Io non faccio proprio lupo. Ti prendi una casa più grande. Già lo so, una paraura, che ti ammassa di baraguri, grazie, le buone pagate. Cioè, se prendono a casa mano avevo un sicuro abito. Eccolo, c'è vero. Ma è più abitabile la. Una massa di gurrudone, certo. Ma c'è le trucche anche di meno. Te lo raccomando che te la danno così così proprio. Ma lascia perdere già. Lascia perdere. Allora io ho un'amica che la sta affittando. Quella la portavo. Affittando 300 euro compreso di condominio, 300 euro in tutto. 300 euro, cioè, ma lo sai che sono pago io paghi su cazzo della casa? Non lo so. 380 euro paghiamo. Vedi, però sei a Sassari, là è auguri amarmi. Ascolta, se va a Udoli di Namine era andato, dico la verità. Ero stato a vabbè, me ne era andato. E anche tu. Ah, ma se pensa che poi da voi ci ampliano con la possibilità. Comunque 380 euro sono vestiti in am. sono un vescico. A me mi aveva, qualcuno mi aveva fatto un'altra proposta, ma mi pare un po' più da usurai, già te lo dico quando ci vediamo. Allora, ecco, questa mia carina c'ha una bella casa, grande, con giardino, con tutto quanto, solo che a te ne vorrebbero puliti, perché il condominio non lo... Sì, questo lo decido io. No, non è quel proprio mettere. Il condominio lì ti proibisce di mettere l'altra barattina. Comunque è bella come casa, grande, c'ha la cucina grande, c'ha il bagno, una camera bella grande, un'altra stanza, è bella grande come casa, è abitabile al 100%. No, ma... non ho mai sopportato questo. Io se me ne vado a abitare in una casa voglio le mie comodità, cioè se tu a me mi passa che non mi puoi proibire, se casa mia magari lo ci dinnesciano e tu, io faccio quello che voglio. Ma dico che tu fa la facciata, lo dici tu, lo dici, cioè lo dico a loro. Sai che ci voglio, ando, siccome essendo la mia proprietà, vado di dirigeggio e vedi che non posso, e come ce lo faccio? E vinco io, mi dico che vinco io, non è così, no? Se ti interessa, fammelo sapere. E ogni anno, in chi va voglio amare, ma poi è capo, sì. Lo so, ma stai meglio e paghi di meno. Ma come faccio io, Giacomo? Ma stai scherzando? Ma anche avendo la macchina? E chi sono vestiti di gasolio? Allora, quello che tu risparmi ce lo metti in gasolio, ce lo metti. Ma fuori di testa siamo. Cioè, minimo 80 euro al mese ti rubano in gasolio. Cosa hai fatto? Devi uscirti, andrà. Allora, adesso si riesce a fare. Sì, vabbè, quello che vuoi. E ti guardi le turiste. No, già, no. Meglio a Sassari. Per il lavoro sì, per il lavoro è meglio che stia lì. Comunque si trova qualcosa di meno. Qualcosa di meno. Prima di darti, tu ancora non ci sei mai passato. Prima di darti una gazza, ovvia. Gianni Buoni sapeva poco di cose, mica c'è stato uno che addirittura è andato, avesse la vita, è andato nel posto di lavoro, me. C'è proprio un matto di catena, uno che conosco io. Me. Prendo le informazioni naturalmente perché lo sanno, magari hanno avuto problemi con quelli che erano in affitto, che non pagavano, magari adesso sono prevenuti e vanno informati. Sì. Ascolta, io parlo da presupposto che se uno è una persona onesta, tu vai, paghi e tu non sai rompere le palle. Sarà tu più onesta, ma ci sono anche disonesti. Guarda che un'amica mia non li pagavano l'affitto e poi quando se ne sono andati l'hanno rubato anche i materassi, il televisore, tutto quanto, capito? Ma cioè uno qua c'è pure un cipito, cioè non ti paga perché è uno stronzo. Ma una persona che è tranquilla, che vede che cosa, non si fidano, oggigiorno non si fidano. Cioè, poi sono pure un coglione, perché oggi puoi avere il lavoro, domani il travaglio non viene, e cosa fai? Ti brucia Roma a te? Lo so, purtroppo è così. Però loro si devono prendere sicuro, tu metti il loro pane, c'è una casa da affittare e pagano. Ricci, tutto quanto, e poi cazzo se li bruciano il buon affitto, buonanotte, non li conviene più. Lo so, per esempio stanno facendo anche una cosa illegale, c'è gente che magari lavora e poi cosa succede? Non hanno più il lavoro, dice vabbè io non ho più il lavoro, però ti posso dare reddito di cittadinanza, gente che assolutamente non vuole accettare, quelli sono soldi sicuri, dove non è problema, vai, te lo ritiri tranquillo, neanche te lo ritiri, lo mandano via a coso anche. Cioè, direttamente nella tua carta, non ce n'è problema. Ma il reddito di cittadinanza, qui c'è tu, non li hanno fatto su io, mi ricordate? Era dito, un pappagallo affitto c'è in mezzo, ma chi l'ha detto questa stronzata? Chi l'ha detto? addirittura ti danno anche l'agevolazione se paghi l'affitto. Cioè poi girate 500 ti danno 700 e qualcosa e ti paghi l'affitto, cosa siamo di 7. Non lo sapevo, io non ho mai preso le di cittadinanza, grazie a Dio, non ne ho mai avuto bisogno. Pure vedi a questi signori qua che si rifiutano. Ma la tua cittadinanza può durare fino al prossimo anno, poi vive pure posso togliere, non è che è una cosa che dura nel tempo, la volevamo già togliere. Vabbè, però nel momento di biglie, cioè, ho già, cosa fai? Nel momento però c'è la sicurezza che c'è i soldi, poi ognuno si arrangia, capito? Se uno è tranquillo non te ne fa di camuffi. Lo so, ma non sono tutti onesti come noi, no? Ci sono anche disonesti. So. Allora, comunque quella lì è molto bella, io l'ho vista molto bella la casa. Infatti ho detto lasciamela per l'estate, per la bisogneschi. Pensierino? Se la prendo d'estate, gli ho detto, se non l'affitta, se l'affitta, se trova affittarla tutto l'anno, chi? Perché me la darebbe anche tutto l'anno, sempre là. Però se non trovo al limite me la piglio del chilo. Aspetta, sei pensionato, cosa abbiamo a tutti? Cioè, aspetta che stai pensando un cliente, se no... Apparata... Già, ci sei. Vai avanti. Lo sai quello come lo fai? Chi ce lo fai? Quello curo lo fai. Con di catena. Oh. non sono riuscito a parlare a casa, Mario, ti dico la verità, e sono tutta la sera a casa. Allora non sono l'unico che non è specchiato, mi sono fatto un riposino, prima ho modulato un po' con degli amici, poi mi sono fatto un riposino, ma rilassato, senza dormire, rilassato così, oggi sul telefonino devo guardare un po' di cose, poi sono di nuovo qua. Questo pomeriggio va quindi a una certa ora esco, mi faccio una bella passeggiata e mi muovo. Magari lo conosco, ma non ce l'ho presente adesso. Ma tu lo chiedi che l'ho presente? Ti è trasato il cuore? Certo ce l'ho presente, ci ho abitato da ragazzo per 35 anni, io abitavo a Sacro Cuore. No, aspetta, stiamo parlando di via di Brunizia, un po' più a Sacro Cuore. Via Pietrovica dove è questo bocciuto? Pietrovica è al monte, capito, su una trasversale di Alcanomaggiore. Sì, via Pietrovica non so dove, ma non so dove è questo bocciuto. Bocciofilo so che c'è uno a Sacro Cuore, e c'è quello bocciofilo a fianco alla chiesa, lì. No, non è quello, sono parlando di due cose diverse. No, allora sicuramente non è stato. Sono in cui frequentando, ora no, oggi per sapere, sto cercando di sapere. Tutto qui, sono molto grande. E poi ce n'è uno in via Sorso di Bocciofilo, che sappia io. Sì, ce n'è anche uno in via Sorso, salendo proprio lì, che rimane proprio in via Sorso. No, però le monte adesso non ci sono, stiamo parlando di... sembra che parli di ieri, ma parli 30 anni fa. 30 anni, niente, sono 50, non è. Caspita. E allora, io ne ho 62, magari a 12 anni non ci andavo nemmeno con la tu sei del 70, come me ne. Io sono del 59. Tu sei già in pensione? Diciamo di sì, dai, mezza pensione. È una parola grossa. Purtroppo ancora le pensioni contributive sono solo quelle di fare il capito. Idem. Ho detto idem. Allora vedi. Ma dipende quanto ha di invalidità, perché secondo quanto ha di invalidità ti aspettano 5 anni di scivolo e puoi andare direttamente con quella di vecchiaia. Sì, bravo, io mi ho superato la... Si dice questa è una cosa che devi fare, sei in 5 anni e praticamente non riesci a lavorare. Se tu lo fai in 5 anni, riesci a lavorare, allora ti accreditano anche in 5 anni. Altrimenti devi aspettare 77 anni, almeno così mi hanno detto che la riesco provato a fare così. ma a me già lì si ho fatto già la domanda e mi ha scritto che mi aspettano al primo di agosto. Sì, è stato fortunato, tu probabilmente l'hai fatto, ma tu sei smetti di lavorare. Sì, si è riuscito a rientrare entro i 5 anni. Spero di 5 anni come. Però sai, queste cose o lo sai o sei fortunato. Ma in genere non sono. Io ho l'80%. Allora vedi. Bene, ne ho 74, purtroppo così, ma diciamo. Però vabbè, e tu devi andare per caso legale. Ah, se abbiamo lavorato anni facendoci nel mazzo, perlomeno io parlo di me, e poi ti danno proprio briciole. Ma tu hai avuto qualche consiglio sul lavoro anche? Sì, anche. La percentuale qual era? Non lo so, non me lo ricordo, quello non ho fatto calcolare quella lì, non ci ho pensato sinceramente, non me lo ricordo, mi avevo rotto il menisco e mi hanno operato anche. Tutto, invece no, perché le malattie non sono compatibili. sicuramente, però io penso una cosa, se uno è invalido, invalido sempre, non è che gliela devi togliere, anche se perde quella di vecchiaia, non è che gli devi togliere l'altra, se rimane sempre invalido. Con l'esenzione devi fare di analisi, non a pagamento, che è una cosa No, io li, cioè, se non avessi fatto a me l'avrei chiamato la finanza, non i carabinieri. L'avrei fatto passare a fare 7 e 6. Ma non è una buona motivazione. Grazie. una recensione della se c'ha delle patologie specifiche e tu quelle analisi le fai per quel tipo di patologie. Non so come, però io qua non li ho mai pagati. Magari quello è un esame particolare che va pagato. L'altro è dove c'è la polizia, così confermo, dove c'è pure l'ambulatorio. Non so se tengono conto di una parte di quella verità, non lo so, ma penso che trattano tutto. Non lo so come sia. Comunque, adesso non so se mi convenga a fare quella, come si dice, quella di coso, come si dice, quella di vecchiaia, magari di meno di quella di verità. No, ma che siamo quella di 38 anni. 38. Ma essendo magari la pensione essendo anticipata, penso che ti tolgano qualcosa, non so come sia. No, non so come sia. Tu hai detto, tu hai detto, tu hai deve fare la domanda per la rivalutazione e te la aumentano. Una, però se non fai la domanda al CAP, al patronato, non te la aumentano automaticamente. Se tu fai la domanda ti fanno la rivalutazione a 70 anni e te la aumentano.